Letture di Radio 24. In una vignetta pubblicata nel 2008 sul Manifesto, Vauro aveva rappresentato la giornalista Fiamma Nierenstein con il classico naso adunco, che nella propaganda antisemita viene usato per identificare il tipico ebreo, e con la stella di David cucita sul petto, come avveniva per i deportati dei campi di concentramento. La vignetta aveva scatenato l'immediata indignazione del popolo ebraico. Anche Peppino Caldarola, ex deputato dei Democratici di Sinistra, aveva criticato il noto vignettista, ma oggi un tribunale lo condanna, in nome del rispetto del diritto di satira, che però vale in un senso solo, come commenta Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Se si applicasse il principio un po' barbaro del non poteva non sapere, Monio Vadia sarebbe condannato con una pena molto severa. Monio Vadia, che non sa che la raffigurazione mostrificante del naso adunco fa parte di una lunga e spregevole tradizione iconografica antisemita. Ma andiamo, è impossibile. Perciò, se Monio Vadia ha deciso di congratularsi con il vignettista di nome Vauro, che aveva dileggiato con il naso adunco e una stella di Davide come segno identificatore un'ebrea italiana, Fiamma Nierenstein, colpevole solo di pensarla diversamente da Vauro e di aver scelto uno schieramento politico opposto a quello del vignettista, allora ne dobbiamo dedurre che Monio Vadia si è distratto o che è vittima di un oscuramento momentaneo della sua vigile coscienza. Inoltre Monio Vadia sembra prigioniero di una forma acuta di paranoia politica. Dice che Vauro sarebbe vittima di un'occulta manovra di una destra tentacolare e insidiosa. Ma omette di dire che il giornalista condannato da un tribunale italiano solo per aver rudemente criticato la vignetta dell'ebrea con il naso adunco, Peppino Caldarola, è un giornalista di sinistra, con un passato e un presente tutto interno alla tradizione della sinistra e in particolare della sinistra cresciuta nel Partito Comunista Italiano. Ma l'accecamento politico è proprio questo. Sorvola sul naso adunco e sul dileggio della stella di Davide, quando è frutto di una vignetta disegnata da chi è politicamente vicino, e si inventa, come i paranoici, un gigantesco complotto della destra mondiale per colpire un povero disegnatore. No, non può essere malafede, sarebbe una delusione troppo grande per chi ha nutrito stima per Monio Vadia. Diciamo che il doppio standard gli viene naturale, o patologico, come un tic che non si riesce a controllare. E poi si può sempre legittimamente cambiare idea, come Gad Lerner, che scherza con quel discolaccio di Vauro per via del nasone, ma scherza solo ora, perché quando un topo da Radio Padania berciò sconcezze sul nasone di Lerner, quest'ultimo giustamente non scherzò e querelò chi aveva associato un ebreo a un nasone. Certo, il nasone del leghista è antropologicamente inferiore al nasone del vignettista politicamente corretto, e quindi si capisce che Lerner applichi due pesi a due misure diverse. Mica i nasoni hanno tutti lo stesso peso. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista «Non c'è un nasone politicamente corretto» dal Corriere della Sera, del 6 febbraio.